Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. La musica profana vocale del Cinquecento, seconda parte. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti a una nuova puntata di Lezioni di musica dedicata al Cinquecento, questo grande periodo della storia della musica. Abbiamo cominciato ieri a parlare del repertorio vocale profano di intrattenimento. Bene, non si può non parlare di un genere che ebbe vita molto breve, ma che ha generato dei capolavori meravigliosi, che è il cosiddetto madrigale drammatico, che viene anche definito madrigale rappresentativo o madrigale dialogico. È un brano quindi che ha le caratteristiche del madrigale, 4-5 voci a cappella, in genere sono voci che cantano da sole, possono essere accompagnate dagli strumenti, abbiamo parlato di questo rapporto con la musica strumentale in questo repertorio, ma la singolare particolarità di questo genere è di essere letteralmente a metà fra il teatro e la musica invece pura, quindi fra l'opera, diciamo, che nasce proprio in questi anni, l'opera nasce nel 1600, e il madrigale, il brano vocale profano di intrattenimento. È un ibrido molto singolare, un ibrido che si occupa di prende in esame, mette in musica dei bozzetti descrittivi, dei dialoghi, in alcuni casi addirittura delle intere commedie, è quello di cui parliamo oggi, che sono però realizzate appunto in stile polifonico. Un personaggio non è identificato da una singola voce, da una singola linea vocale, come succederà nell'opera, ma invece può essere identificato un singolo personaggio da 5 voci. Un dialogo fra due personaggi può alternare 2 voci e 3 voci, o 5 voci e 2 voci, o 5 voci e 5 voci. Quindi un effetto complessivamente polifonico che però in qualche modo descrive, rappresenta una situazione teatrale. Naturalmente molti ascoltatori avranno già fatto il collegamento con un genere di cui abbiamo parlato ieri, che è la chanson descrittiva, la chanson di Clément Genequin. Ieri abbiamo sentito un brano della guerra, abbiamo sentito un brano della chasse, la caccia. Queste scene in cui ci sono molti personaggi che parlano e tutto è realizzato attraverso questa sorta di grande concitazione, grande complessità polifonica. Bene, il prototipo del genere di cui parliamo oggi, il madrigale drammatico, si ispira apertamente, dichiaratamente a Genequin ed è un pezzo vocale abbastanza straordinario di Alessandro Striggio, compositore italiano, che viene composto, o meglio viene pubblicato nel 1567 e si chiama Il cicalamento delle donne al bucato, cioè una piccola scena di genere in cui ci sono tutte le comari che stanno facendo il bucato e spettegolano, litigano, si alleano l'una contro l'altra con questa grande vivacità, questa grande concitazione. Potremmo sentire questo brano, potremmo sentirne altri di questa tradizione che appunto ha creato delle cose divertentissime, magnifiche da ascoltare. Io volevo parlarvi, visto che abbiamo una sola puntata a disposizione, purtroppo ognuna delle puntate di questo nostro ciclo sul Cinquecento prova ad esplorare in 25 minuti un universo. Idealmente dovremmo dedicare 200 puntate a ognuno di questi compositori che sono veramente dei giganti della storia della musica. Il tempo è questo, ne prendiamo atto e lo sfruttiamo nel modo migliore. Io voglio parlarvi quindi oggi dell'Anfiparnaso, commedia armonica, come la chiama lui, di Orazio Vecchi, compositore modenese che nasce alla metà del Cinquecento, intorno al 1550, morirà nel 1605 e scrive molte composizioni, pratica in particolare il madrigale drammatico. Sicuramente il suo capolavoro è questo Anfiparnaso 1597, anche se probabilmente era stato eseguito in precedenza. Qual è l'idea dell'Anfiparnaso? È di prendere il mondo della commedia dell'arte, quindi ci sono le maschere, c'è Pantalone, c'è il dottor Graziano, di metterlo in musica, ma di metterlo in musica Vecchi non mette in musica un'intera commedia, prende dei frammenti di commedia dell'arte, frammenti molto caratteristici, alcuni sono seri e patetici, i due personaggi che si amano e che sono osteggiati, quindi naturalmente lo stile sarà lo stile del madrigale serio, patetico, amoroso, e il linguaggio sarà un italiano aulico. Invece altre parti della composizione sono un fantastico miscuglio di linguaggi, di stili, di dialetti. Quindi c'è una forte idea di sintesi, un senso della sintesi fortissimo in questa composizione. E beh, questa dualità, questa sintesi, questa complessità dell'operazione Vecchi ce la dichiara già dal prologo. Il prologo, che è, come succedeva nelle commedie dell'epoca, è annunciato da un personaggio, quindi cantato da 5 voci. E sentite cosa ci dice il prologo. A un certo punto ci dice: voi sappiate che questo di cui parlo spettacolo si mira con la mente, dove entra per le orecchie e non per gli occhi. Quindi l'aspetto del teatro, che però è teatro musicale, si ascolta con le orecchie e non si guarda con gli occhi. Però silenzio fate e invece di vedere ora ascoltate. Esattamente questo dualismo fra le orecchie e gli occhi, cioè fra il teatro e la musica, che era 1597, era un problema cruciale in quel periodo, è la base del titolo di questo brano, che si chiama L'Anfiparnaso, cioè il doppio Parnaso, e teoricamente è il Parnaso quindi della poesia, del teatro e della musica, il doppio Parnaso. Per farvi immediatamente sentire lo stile di questo brano, sentiamo la prima scena dopo il prologo, che è un dialogo fra Pantalone e il suo servo, Pierolin. Pantalone parla in dialetto veneziano, Pierolin, come la maggior parte dei servitori della commedia dell'arte, parla invece in dialetto bergamasco. E a questo si aggiunge il fatto che Pantalone naturalmente è innamorato di una giovane fanciulla, una giovane cortigiana che non ne vuole sapere, e il piccolo sottotitolo di questa prima scena dice: è preso Pantalone della bellezza d'Ortensia cortigiana, ma l'ingrata punto non cura esser da un vecchio amata. Quindi noi abbiamo all'inizio il dialogo fra Pantalone e il suo servo, che gli dice: Pierolin, dove sei? Dove sei? Lui dice: messer, non posso venire perché sto in cucina. Non posso venire ca su in cucina. Ah, l'aro a can, che fa tu là in cucina? E dice: mimpul il gargatu, cioè mi riempio il gargarozzo di certi cotai che canta tu cul di piripi cucurucu. Dice: ah, bestia, vuoi dire i galletti e i piccioni? Dai, vieni fuori. Come comandate, messer Piantalimù, Piantalimone, Pantalone, Piantalimone. Lui qua si arrabbia, dice: vai, chiama Ortensia. Lui va a chiamare Ortensia, dice: chi è che scoccia qui, cosa vuoi? Vattene in malora, vecchiaccio rimbambito, credi che io sia una donna da partito? Lui cerca di blandirla e lei lo caccia. E lui se ne va tristemente dicendo: povero Pantalone, ah, donna ingrata, quando poi ti vorrà, mi non vorrò. È un classico bozzetto della commedia dell'arte, ma sentite l'effetto della resa polifonica, in cui i personaggi non sono identificati da una singola voce, ma da gruppi di voci che si alternano. Oh, Pierolin, dove tu? Dove tu? Pierolin, Pierolin, Pierolin. Messì, questo è il servitore. Pantalone. Qui chiama Ortensia. La vivacità di questo stile, il modo in cui i diversi personaggi sono identificati attraverso piccoli blocchi di voci che si alternano, e anche questo cambiamento stilistico molto netto. Ortensia che lo caccia e lui che risponde: pian pian cara Madonna. Il ritmo si fa molto più piano, no? È lasciate che vi dica una parola sola. Qui la musica si ferma, resta su un solo accordo, guarda caso. L'altro aspetto che vale la pena di sottolineare è l'uso continuo delle onomatopee. Quindi, appunto, quando il servitore gli dice «Ma sono qui a riempirmi la pancia di certi che cantano tutto il giorno», piripiripi, curucucù, e lui dice accidenti a te, quindi questi sono i galli e i piccioni. E l'altro aspetto è la rappresentazione di Pantalone, vattene in malora, vecchiaccio rimbambito, perché Pantalone balbetta, ortensia, ortennenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen che vengono rese in musica, appunto, in questo Anfiparnaso, con questo risultato di una vivacità, di una bellezza, di una leggerezza anche veramente meravigliosa. Avete colto anche il fatto che Ortensia parla in italiano, Pantalone parla in veneziano, Pierolin parla in bergamasco, questo continuo miscuglio stilistico. L'Anfiparnaso di per sé non ha una vera e propria storia, sono appunto una serie di bozzetti di tipiche situazioni della commedia dell'arte che vengono esplorate una dopo l'altra, in successione. Quindi abbiamo dei momenti seri, patetici, abbiamo dei personaggi, sono personaggi della commedia dell'arte, delle maschere, Pantalone, il vecchio, il dottor Graziano che parla in bolognese naturalmente. Fra i personaggi c'è anche il capitano Spaccone, che normalmente in questo periodo è uno spagnolo. Guarda caso siamo nel Cinquecento, cioè il periodo di Carlo V, il periodo di Filippo II, e in questo brano, nell'Anfiparnaso, c'è il Capitan Cardonna, che è uno spaccamontagne, è un miles gloriosus, che parla in spagnolo. Corteggia la figlia di Pantalone. Pantalone in realtà vorrebbe dare la figlia al dottor Graziano, ma la figlia finirà per sposare invece il giovane Lelio, quindi è un classico intreccio. Volevo farvi sentire un incontro fra Isabella, figlia di Pantalone, e il capitano che parla in spagnolo, e naturalmente la ragazza lo prende in giro e dice: oh, ecco il mio capitano, ecco lo mio bene e la mia spene, baciovi la mano. E lui risponde in spagnolo: buenos días, me señora, quiero hablaros agora. Parla continuamente in spagnolo e lei lo provoca, vuole farlo ingelosire, dice: a che far l'appassionato o amante ingrato? Se un'altra dama vadora, vama, se nuovo amore va tolto il core, a tiranno, a crudele, che mi giova esser fedele? E lei, un po' civetta, insomma, lo circuisce, lo costringe a chiederle scusa, finché lui non comincia questo dialogo che diventa estenuante, perché dice: ma ditemi, desime mi signora, che son estas tetiglia? Se lei dice: del capitan Cardon. Il oscios, il orecios, del capitan Cardon. Il rostro, i les narices, del capitan Cardon. La fronte, la cabeza, del capitan Cardon. La musica diventa sempre più stanca in queste risposte di lei, continua a rispondere: sì, sì, son tuoi, quando mi lasci in pace? Ascoltiamo questa scena. Capitan Cardone e Isabella, scena terza, e la didascalia scenica dice: finge Isabella arder di vero amore con lo spagnol per dar più grave crollo, morendo al suo desir non mai satollo. Lo spagnolo. Buenos días, mi señora, quiero hablar. Isabella, muy galana, y gentil también hermosa, y gentil también hermosa. Quel lei che risponde: a che far l'appassionato? O amante ingrato? Sull'altra dama vado regata, se non amore va col cuore. Pero no soy. Bene, naturalmente, oltre a questi personaggi, personaggi comici della commedia dell'arte, vi dicevo, ci sono i personaggi invece nobili, la storia d'amore, i giovani, i quali cantano in stile serio, in stile madrigalistico. Questa alternanza, questo mutamento stilistico è una delle caratteristiche più forti di questo genere, ma naturalmente, visto che qui abbiamo a che fare con la commedia, Orazio Vecchi non rinuncia all'idea di realizzare anche delle parodie madrigalesche, quindi di citare stili tipici dell'epoca facendogli il verso, e in questo caso nell'Anfiparnaso c'è una famosa parodia di un madrigale di Cipriano Terore che non riusciamo a sentire, non lo sentiremo, ma insomma spero di perlomeno di stimolarvi ad ascoltare questa musica meravigliosa. Il famoso madrigale di Cipriano, pensate che era addirittura del 1547, 50 anni prima, il che dice anche quanto questo repertorio, quanto la musica del Cinquecento comunque restasse nella tradizione. Cipriano d'Errore scrive un madrigale il cui testo dice: ancor che col partire io mi senta morire, partir vorrei ognor, ogni momento, tant'è il piacer che io sento della vita che acquisto nel ritorno. Questo dualismo, no? Il partire e morire, però il tornare è talmente bello che vorrei partire in continuazione. E Orazio Vecchi realizza una parodia di questo madrigale in cui la prima voce, la voce del soprano, è identica esattamente alla voce di Rore, cambiando le parole. Quindi noi abbiamo: ancor che col partire io mi senta morire, e il madrigale invece cantato dal dottor Graziano, che storpia tutte le parole, dice: ancor che al parturire al se stenta morire. Poi lui continua: a partir vorrei ogni ora, ogni momento, tant'è il piacere che io sento della vita che acquisto, della vita che acquisto nel ritorno. E lui dice: patir vorrei ogni ora senza tormiente, tant'è il piacere vincenze dell'acqua vita che m'appist, eppur ai torne. L'acqua vita che m'appist, invece il testo di Cipriano dice: tant'è il piacere che io sento della vita, diventa l'acqua vita, naturalmente, l'acqua vite. Ecco, questa caratteristica, riprendere un madrigale, fargli la parodia veramente mettendolo in burla, è caratteristico di questo periodo. Un brano che è modellato sull'Anfiparnaso, che è La pazzia senile di Adriano Banchieri, compositore bolognese, scritto qualche anno dopo l'Anfiparnaso, prenderà il più famoso dei madrigali di Palestrina, che vestiva i colli, e il testo dice: vestiva i colli e le montagne intorno, quindi una scena naturale, pastorale, e il testo di Banchieri dirà: rostiva i polli e le castagne al forno. Un'altra lezione dice: rostiva i corni e le castagne al forno, quindi lo trasforma in una parodia invece totalmente gastronomica. Abbiamo giusto il tempo di sentire un altro paio di istanti dall'Anfiparnaso. Questo è un momento molto divertente in cui Pantalone sta preparando il matrimonio della figlia con Graziano e dice a un altro servitore, Francatrippa, anche lui parla in bergamasco, gli dice: avanti, forza, invita i miei parenti. E dice: vabbè, ma i miei parenti invece, i miei, quelli del servitore? E dice: ma chi sono? E lui gli fa un elenco colossale di 200 persone. Dopodiché entra il dottore, entra suonando uno strumento, il zambaglion, uno strumento singolare di cui non si trovano riferimenti, ma sicuramente uno strumento ad arco, perché poi le voci ci fanno sentire lo strumento che suona tronc, trencu, trencu, trencu, trencu, quindi tutte le corde pizzicate. Sentite quest'altro piccolo gioiello, questa scenetta veramente deliziosa fra il padrone e il servitore. Invita i miei parenti. Dice, ma i miei parenti mi? E che parenti hai tu? Fai conto due. Parenti stretti stretti. Ed ecco l'elenco. Con l'arrivo del dottore. A questo punto il dottor Graziano si lascia convincere a cantare il madrigale di Cipriano d'Erore, di cui abbiamo appena parlato, che non vi farò sentire perché abbiamo giusto il tempo per chiudere questa nostra puntata dedicata a questo straordinario genere che veramente mi augurerei che ognuno di voi fosse invitato, stimolato a ricercare, ad ascoltare, il madrigale drammatico, madrigale rappresentativo. Per chiudere il cerchio di questo incredibile pastiche linguistico e stilistico che costruisce Orazio Vecchi, bene, Pantalone ha impegnato qualcosa al Banco degli Ebrei per poter organizzare il matrimonio e quindi manda il servitore dagli ebrei, il servitore va, suona, tic tac tac tac, bussa alla porta degli ebrei, gli ebrei rispondono cantando canti ebraici, quindi c'è anche la parodia dello stile ebraico. Loro cantano Ai Barukai, Badanai, Mardokai, An Bilukan, Get Milotran. La Barukaba naturalmente è un nonsense di parole, un pastiche di parole ebraiche mischiate, fuse. Il risultato naturalmente è che gli ebrei rifiutano completamente di ricevere il servitore perché è sabato e non possono aprire. E con questa piccola scenetta direi che noi ci salutiamo. Io vi do appuntamento, Giovanni Bietti, vi do appuntamento alla prossima settimana in cui parleremo di un'altra fase, di un'altra avventura straordinaria del Cinquecento che è la musica strumentale. Musica strumentale che non nasce nel Cinquecento ma si emancipa letteralmente nel corso del Cinquecento. Esploreremo due tappe di questo percorso importantissimo e veramente meraviglioso. Questo è Franca Trippa e gli ebrei di dentro. Va agli ebrei Franca Trippa, il servitore, a porre un pegno. La porta forte scuote, una babelle sode di voi. E orribili favelle, ancora un brano dall'Anfiparnaso di Orazio Vecchi con il quale ci salutiamo. Buona domenica da Giovanni Bietti. andaman. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare brani di musica profana vocale del 500 dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.